Noi ci aspettiamo che i grandi mettano sul piatto due cose: i soldi per aiutare i paesi più poveri ad adattarsi ai cambiamenti del clima e a fare quel salto tecnologico che consenta loro di svilupparsi senza inquinare. La seconda cosa che ci aspettiamo è quella di impegnarsi a una riduzione, una forte riduzione delle emissioni, 40% entro il 2020. Abbiamo dei settori che non si raggiungeranno questi due impegni. Si farà qualche progresso sull'impegno a stare al di sotto, ben al di sotto dell'aumento della temperatura media globale di 2 gradi. Questo vuol dire ovviamente però poi in un modo o nell'altro arrivare a questi impegni che ho detto prima, perché per stare al di sotto dei 2 gradi bisogna tagliare da subito le emissioni, le emissioni devono avere un picco e declino molto rapido, e vuol dire evitare che le economie in via di rapido sviluppo comincino ad inquinare come noi, anzi hanno già cominciato ma continuino ad inquinare come abbiamo fatto noi, e bisogna aiutarle. Io credo che Obama stia facendo molto, parte da una situazione molto negativa, sta giustamente cominciando a fare le cose a casa propria, nel senso che ovviamente non vogliamo trovarci nella stessa situazione di Kyoto in cui si sottoscrivono degli impegni e poi vengono bocciati a casa, questo credo che sarebbe estremamente negativo. Confidiamo in lui, ovviamente conosciamo le difficoltà e credo che ci voglia una grande spinta da parte della popolazione statunitense, che è sempre più cosciente del problema dei cambiamenti del clima e anche molto cosciente del fatto che affrontare i problemi del clima vuol dire anche affrontare la questione, per esempio, della sufficienza energetica e altre grandi questioni del nostro tempo.